è apparentemente un controsenso, ma dipende a che prezzo lo stanno acquistando. Quando si hanno contratti a lungo termine, può essere che ci sia almeno una quota del gas che viene commercializzato che, anziché essere pagato al prezzo spot, come si chiama, cioè quello attuale, venga pagato a un prezzo stabilito in precedenza. Quindi se tu acquisti a un prezzo basso e vendi al prezzo di mercato, ovviamente hai un beneficio economico molto significativo. Quali sono le aziende che in Italia stanno beneficiando di questa situazione? Non è facile capirlo, perché non sono pubblici i dati sui contratti. Quello che sappiamo è che, ad esempio, Eni ha chiuso un primo trimestre con dei risultati estremamente positivi, assolutamente fuori scala rispetto ai risultati che la stessa multinazionale ha avuto negli ultimi anni. Sappiamo quanto è importante Eni nel mercato del gas italiano, quindi è abbastanza facile identificare in Eni una di queste aziende che sta beneficiando in maniera significativa. Però, ripeto, i dati sui contratti di acquisto del gas non sono pubblici e quindi con certezza non lo sappiamo. Per calmierare il prezzo dell'energia che sta crescendo per i consumatori, i Verdi, ma anche i movimenti ecologisti, hanno iniziato a chiedere una maggiore tassazione. Si è parlato anche di una tassazione al 100% appunto su questi extra profitti. È una proposta sensata? Di fatto una tassazione al 100% di questi extra profitti c'è già per quello che riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Da marzo a dicembre di quest'anno, infatti, è già in vigore un provvedimento che fa sì che i benefici economici, che in quel caso sono più semplici da calcolare, vengano di fatto interamente requisiti dallo Stato. Quindi al momento la situazione è una situazione che è addirittura penalizzante per chi ha investito e ha realizzato impianti che producono energia rinnovabile, e al momento non c'è nessun provvedimento analogo invece per chi ha investito in risorse fossili. Quindi questo è sicuramente un controsenso se, oltre alla riduzione delle bollette, abbiamo in mente anche gli obiettivi di decarbonizzazione. Insomma, rischiamo un po' il paradosso, una situazione in cui scoraggiamo la produzione di energia rinnovabile pulita e incoraggiamo invece la produzione di energia tradizionale, quindi fossile. È un paradosso purtroppo in cui siamo costantemente immersi, no? Come non ci stanchiamo mai di ricordare del fatto che gli incentivi ai fossili sono da sempre infinitamente maggiori rispetto a quelli che vengono pagati alle rinnovabili, semplicemente che in un caso sono più evidenti e sono più espliciti, nell'altro caso magari sono meno evidenti e meno espliciti, e che viviamo costantemente dentro questo paradosso. E questa situazione di svantaggio per chi produce energia rinnovabile si fa sentire particolarmente per un progetto come il vostro, quello di Enostra, che è una comunità energetica. Che perdite state avendo, che problemi state riscontrando? Ma di fatto a noi questa operazione, almeno abbiamo previsto, che dovrebbe costarci qualcosa come 100.000 euro, che per una società relativamente piccola come la nostra è una quota abbastanza rilevante, e sono 100.000 euro che semplicemente non possiamo scaricare come beneficio economico sui nostri soci, perché essendo una cooperativa, ovviamente nel nostro caso i benefici non vanno a remunerare un capitale investito, ma vanno a remunerare i soci che fanno parte della cooperativa, che siccome si sono mossi prima e appunto hanno sposato un progetto di sviluppo delle energie rinnovabili, si trovano in una situazione in cui avrebbero potuto anche beneficiarne economicamente, ma non potranno farlo, almeno non interamente, proprio per questo provvedimento.